istantanee, canta Tiziano Ferro qui su Radio Stonata, la prima canzone ad aprire l'appuntamento di questa sera della Suite Stonata con Incanto, e noi ci colleghiamo subito con Città del Capo, dove come ogni martedì e giovedì ci aspetta il nostro Flavio Alagia di nonsoloturisti.it, ma questa sera non è solo, perché con lui c'è un giornalista, uno scrittore, un viaggiatore, ed è colui che racconterà la storia, appunto a parole, del loro lungo viaggio che inizieranno, appunto Paolo Provelli. Buonasera a tutti e due. Ciao Beppe, buonasera a tutti. Ce l'ho fatta? Buonasera, sì. Buonasera Beppe. Buonasera Paolo. Siamo qua a Città del Capo ancora, però le macchine sono arrivate, i motori premono per farci partire lungo, durante il nostro lungo viaggio, anche noi siamo ansiosi di metterci sulla strada, di prendere il via per l'avventura che ci aspetta. Nel frattempo stiamo esplorando la Città del Capo, la capitale del Western Cape, una città, come ho detto più volte, veramente meravigliosa, piena di contrasti ma anche di angoli bellissimi da vedere, da scoprire. Hai detto bene, non sono solo neanche questa sera, con me c'è Paolo Provelli. Paolo Provelli sarà la voce narrante della nostra avventura, cioè in questo mix di fotografi, videomaker, autisti meritevoli tipo me che prenderanno parte a questo progetto, c'è anche giustamente la voce narrante, chi metterà le parole e creerà il filo conduttore testuale tra le immagini, il video e tutte le nostre esperienze. Insomma, Paolo, come hai già detto, è un viaggiatore, è uno scrittore, è uno che già il mondo l'ha preso, l'ha visto da ogni angolazione, da ogni punto di vista, ma preferisco far parlare lui. Quindi Paolo, chi sei? Cosa fai? Chi sei? Effettivamente me lo sono chiesto tante volte, perché ogni volta mi chiedono: ma tu cosa fai? Chi sei? E io effettivamente ho diverse sfaccettature, però adesso sono qua come scrittore, come diceva giustamente, scrittore geografo e voce narrante di questa bellissima impresa, di questa sesta tappa del nostro 7000 miglia lontano around the world. Per parlare un pochino, ho viaggiato, ho fatto diverse esperienze simili. Una su tutte, forse la più curiosa, è un coast to coast euroasiatico da Lisbona a Pechino, a bordo di un'ape piaggio, un'ape car. Un'ape fantastico, car, Paolo. Quelle che vediamo nelle nostre strade, nei nostri tratturi di campagna. E con questo ho fatto un viaggio di 7 mesi da Lisbona a Pechino e ci ho scritto il mio primo libro. L'ape piaggio che andava a che velocità? Dillo un po'. L'ape piaggio lo danno, la casa lo dà attualmente ancora a 60 km orari di punta, 62, vuoto e con le benzine buone. Le benzine buone finiscono in Turchia, poi dopo le benzine che intendiamo noi non ci sono più, ci sono altri motori, altri liquidi, insomma avventure e disavventure. Avventure e disavventure che probabilmente che potremmo anche rivivere in questa nuova avventura, appunto, in questa nuova impresa che comincerà. Beh, e partirà tra un paio di giorni. Senza nulla togliere all'app viaggio, se non altro i nostri veicoli questa volta andranno un po' più veloci, speriamo non debbano correre troppo, ma un po' più di 60 km orari ho scoperto riusciamo a tirarli. Già abbiamo fatto una bella esplorazione delle aree che circondano la bellissima Città del Capo, però cioè, questa cosa qua, io sai, ho fatto da Città del Capo all'Egitto 4 anni fa, poi vengo qui, Paolo mi dice che ha fatto l'Europa e l'Asia sull'ape piaggio e io mi sento un micro in confronto a un viaggiatore così. Per questo che mi viene necessario, sentivo chiedergli la più grande disavventura, cioè un percorso così immenso, il più grande inghippo che vi è capitato in quei mesi lunghissimi di viaggio, qual è stato? Ma, guarda, io sono dell'idea che nelle avventure di viaggio non ci sono mai, cioè l'unico problema è, cioè l'unica cosa è stare bene, perché per il resto qualsiasi imprevisto lo si risolve, e con questa idea bisogna intraprendere la nostra nuova avventura. A me, io per esempio ho fatto un piccolo incidente durante quel viaggio, dopo soltanto un mese di viaggio, ripeto, ne ho fatti 7, pensavo che fosse tutto sfumato, però sarebbe stato, che tutto sarebbe andato, diciamo, sarebbe finito, e invece sono ripartito dopo 2 o 3 giorni e sono arrivato alla fine. Per cui non bisogna mai perdersi d'animo, qualsiasi imprevisto è da mettere in conto e sarà da apprezzare, perché farà parte del nostro racconto, farà parte del nostro bagaglio poi culturale di esperienze, e che porteremo fino alla fine. Hai sentito, Beppe? C'è speranza, anche con me alla guida c'è speranza. Infatti questo qua mi conforta, Flavio, che anche con te alla guida c'è speranza, quindi ce la puoi fare, Flavio, siamo tutti con te. No, ma io ero incuriosito soprattutto dal fatto dell'ape, ma cioè, veramente, ragazzi, fare un viaggio in ape è massacrante, dai. Sì, no, cioè, è massacrante, allora, massacrante nella misura in cui c'è anche Messner, ha scalato già 8.000, anch'io dico che è massacrante, però quando vale la pena, la cosa assume un significato e una leggerezza diversa, insomma. Qualsiasi cosa deve valer la pena, e uno la fa e non sente la fatica. Mm-hmm. E in questo caso sarà la stessa cosa. Noi prendiamo, partiamo, siamo pronti a fare le migliaia di chilometri che abbiamo calcolato in più o meno 7-8 mila chilometri, grosso modo. Mm-hmm. E prenderemo la strada e saremo pronti a viverci le nostre avventure, come dicevo, le disavventure, con grande gioia e sicuramente ne varrà la pena, perché siamo partiti con quella mentalità. Ragazzi, io vi stoppo un attimo, ci ascoltiamo un brano, ma ritorniamo subito nuovamente in diretta con voi lì da Città del Capo. E dopo un bellissimo brano e dopo qualche minuto di pubblicità siamo ritornati nuovamente in diretta qui su Radio Stonata, all'interno della suite Stonata, in collegamento con il Città del Capo, dove sapete c'è Flavio Lagia di nonsoloturisti.it, ma non è solo, con lui questa sera Paolo Provelli. E a voi, ragazzi, anzi aspetta, prima di farvi parlare pubblicamente, gli dico a Paolo che è una voce radiofonica, quindi Paolo, quando vuoi puoi tornare. grazie molto buono. Visto che ti piace la voce di Paolo, Beppe, allora gli faccio raccontare che cosa ha in serbo per noi. Paolo, oltre a essere la voce narrante, è l'unica persona coscienziosa probabilmente che si è preso la briga di studiare un attimo il percorso e di metterci qualche tappa interessante. Quindi, Paolo, dove andiamo a partire da sabato? Allora, a partire da sabato, intanto una piccola introduzione. Il compito me lo sono preso perché da qualche anno faccio anche guida e accompagnatore turistico, e è un po' di tempo che faccio questo tipo di lavoro, insomma, di prendere chi vuole viaggiare e portarla con me. Insomma, in questo caso noi partiremo sabato, come dicevamo, finalmente lasceremo, finalmente non perché sia brutta, però finalmente partiremo e saremo sulla strada, on the road veramente, e partiremo da Città del Capo verso nord. Cominceremo subito ad andare verso nord e dopo un 2 o 3 giorni nello stesso paese, cioè in Sudafrica, passeremo il confine della Namibia, e in Namibia dedicheremo un po' di giorni delle nostre 6 settimane per esplorare i deserti e i parchi naturali e le persone, insomma le tribù, le popolazioni che ci sono in quella zona, che sono piuttosto interessanti. Andremo a vedere come si trasformano anche le genti, non solo gli animali, no? Perché potrebbe essere un lungo safari il nostro viaggio, ma invece saremo molto interessati anche alle persone, ai mestieri, alle persone normali, come anche alle etnie dei villaggi più sperduti. Quindi entreremo in Namibia, dalla Namibia passeremo all'Africa tropicale. La Namibia è un paese desertico, quindi piuttosto diverso da quello che poi affronteremo poi in seguito. Deserto e molto caldo, perché siamo in una stagione che equivale alla nostra estate, e la Namibia avrà un clima che assomiglierà molto a quello del Sahara d'estate, quindi ve lo potete immaginare, chiaramente potete pensare una Libia o un'Algeria a luglio, ad agosto, insomma. Sarà un caldo piuttosto pesante, ve lo racconteremo, poi ve lo racconterà Flavio andando avanti. E dalla Namibia passeremo allo Zambia, paese già ben tropicale, quindi savana, e qualche safari ce lo concederemo, qualche visita di parchi naturali, perché ce ne sono tantissimi. Andremo a vedere probabilmente le cascate Vittoria. Dico sempre probabilmente perché sono un possibilista. Non c'è mai nulla di certo, sono un possibilista. Una volta che siamo entrati capiamo dove cavolo andiamo a sbattere. Infatti, bravo Flavio, bravissimo. Bravo, oltretutto è pure di carattere, per cui lo so che è tutto possibile, sia nel viaggio che nella vita. E dallo Zambia passeremo in Malawi. Abbiamo scelto di vedere questo piccolo paese incastonato in mezzo a dei colossi come appunto Zambia, Mozambico, la Tanzania, perché pensiamo che sia piuttosto differente. È formato da un grande lago, da uno dei più grandi laghi della Rift Valley, e lì cominceremo la nostra risalita appunto anche un po' della Rift Valley, uscendo poi in Tanzania, il nostro penultimo stato, cioè il penultimo stato della nostra tappa. In Tanzania visiteremo certamente i grandi santuari più famosi, quelli dove fanno la maggior parte dei documentari che vediamo a casa nostra, Michelangelo, eccetera, che Serengeti, Ngorongoro, insomma questi dove vediamo le migrazioni degli gnu e tutte queste belle cose legate agli animali. E da lì passeremo in Kenya, dove a Malindi termineremo la nostra tappa, e passeremo il testimone, che sono le due auto, alla nuova e ultima, diciamo, squadra che prenderà insomma, accoglierà il testimone e lo porterà fino a Milano-Brescia, insomma. Milano-Brescia. Oh, cioè, è un bel viaggio, bello ricco, bello fantasioso. Cioè, questa cosa che mi hai detto, i safari che vediamo in televisione, cioè, un po' mi immagino che i posti sono veramente fantastici. Cioè, immagino pure il resto che è fantastico. Sì, quello, gli animali, però ripeto, gli animali, ma l'uomo, non interessa anche l'uomo in tutte le sue sfaccettature, nella sua normalità di ogni paese. Quindi vedremo l'uomo alle prese con i suoi mestieri, le sue difficoltà, i suoi sogni, no? Come a casa nostra, anche qua, insomma, perché il mondo, non voglio ripetere una cosa che diciamo sempre, il mondo è paese, tutto il mondo è paese, però è vero che è così alla fine, sembra un luogo comune, però è vero, perché tutti abbiamo sogni, tutti dobbiamo sbarcare il lunario alla fine, arrivare bene o male, dove dobbiamo arrivare, insomma. Ok. Flavio, non lo so, avete altre da aggiungere? Ormai avete capito l'avventura che ci aspetta. A quanto pare abbiamo speranze. Il buon Paolo mi dà fiducia fino a questo momento. Com'è andata la guida oggi? Paolo era con me in macchina per un certo tratto. No, tutto a posto? La guida ottimamente. Insomma, oggi siamo andati diciamo al punto più a sud che toccheremo, insomma, che è il capo di Buona Speranza, il fatidico capo di Buona Speranza, che attenzione, non è il punto più a sud dell'Africa, però, anche se nel nostro immaginario lo è il punto più fatidico per quello che era per le correnti marittime, eccetera, le rotte navali. E chiaramente è stato doppiare il capo di Buona Speranza, ha cambiato il mondo. Noi abbiamo girato attorno alla rotonda del capo di Buona Speranza, insomma, che era un po' come da doppiarlo, non avendo una nave in macchina potevamo soltanto doppiare la rotonda. L'abbiamo fatto, siamo contenti, il paesaggio era meraviglioso. Molto potente, direi. Molto potente. Vento, roccia, strapiombo sul mare. I fotografi si sono divertiti, abbiamo fatto la nostra scarallata di immagini, quindi siamo pronti e ansiosi per risalire verso nord. Mare in burrasca, come ce lo immaginiamo. Anche quello ci vuole. Va bene, ragazzi, io ringrazio te Flavio, ringrazio Paolo per la vostra disponibilità. Un saluto soprattutto a Giuliano Radici, fatemi risalutare Giuliano, che realizza tutto lui. Grazie. Grazie a te Beppe. Grazie ragazzi. Beppe, grazie a tutti, grazie a Paolo Provelli per essere stato qua. Adesso siamo nelle mani delle condizioni che ci attendono, sai, il viaggio ora sarà un po' incerto, ma speriamo di risentirci presto. E della connessione internet pure, permettendo. Esatto. Grazie ragazzi, ciao. Buona serata. Ciao.